signori, vi prego, ascoltatemi, anche se la mia è una povera canzone da due soldi. Nelle vecchie strade del quartiere ti affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontare, una fisarmonica, un violino, un po' stonato, capita assai spesso di ascoltare. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi, risveglia in fondo l'animo i ricordi di una bella e spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando a un tempo che non torna più. Vedi aprire piano piano qualche finestra da lontano, e chi si affaccia ad ascoltare e sospirare. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama. È l'eterna dolce storia dell'amore. Qualche volta una canzone da due soldi, presentata dagli artisti più famosi. Ha un sapore di bellezza e novità, il suo motivo l'indomani, che 100 orchestre suoneranno, vestito di mondanità, ovunque andrà. La semplice canzone da due soldi finirà per ritornare dove è nata, per la strada con una bocca innamorata che cantando sogna la felicità. Canzone da due soldi, due soldi di felicità.